Violetta, non ne so. Che dici, Marco? Bravo! Un miraggio quasi può. Se il cortese impeto, grata vi son parole, d'aver l'augur gradito. Fermo è qui, il vedete? Cielo, è vero, il vedo. A voi non sol detto, si volga questo Alfredo. Non detto, non detto. Ancora hai vinto, fortuna dell'amore, fortuna reca il gioco. E se ne vinci, core, lo vincerò stasera, e l'oro guadagnato. Lo sciagover tra i campi, ritornerò beato. Solo? No, no. Contare che vivo meco ancora, e poi mi sfuggia, pietà di lei, signore. Fregatevi, ve lascio. Barone, ma bella ste, spieti in si gran fortuna, che al gioco mi tentaste. Sì, la disfida c'è. Luigi a destra e dalla banca cento un asso, un fante, hai vinto il doppio sia un quattro, un sette ancora con la vittoria mia. Bravo da te, la sorte è tutta mia, vero e mi è già la fine. Seguì e pur la cena è pronta. Andiamo, andiamo, andiamo. Continuar v'aggrada, per ora noi possiamo, più tardi la rivincita, al gioco che vorrete. Segui agli amici, ossa sarò qual bramerete. Andiamo, andiamo. Ebra chiamate? Questo luogo abbandonate, un periglio vi sovrasta. A comprendo, basta, basta, è civile, mi credete? Ma no, non mai. Ma che temete? Tremo sempre del parole. È fra noi mortal questione, se cadrà per mano mia un sol colpo mi varria, un sol colpo mi varria, con l'amante il protettore, e m'atterrisce tal sciagura. Se fosse non ci son, ecco l'unica sventura che un pavento mi fa dare. La mia morte che vengare. Di partite sono stante. Partirò ma giura innanto che dovunque seguirai, seguirai i passi miei. Ma no, giammai. No, giammai. Voi sciagurato, scorda un nome che infamato, ma mi lascia sul momento di vangere, giuramento sacro fece. A chi? Dillo, Ippotea. A chi dritto viene via? Vado fai. Sì. Quell'ami e poi l'amo per tutti a me. Deluso amore, mi strazia l'alma, io non ragiono, ma lei perdono, io non avrò, vuole fuggirla, non ho potuto, dalli raspinto, son qui venuto, perché lo sdegno ho disfogato, m'è sciagurato, rimorsono. Oh, questo cuore non puoi comprendere tutto Oh,